Lesbo è un'isola che negli ultimi 4-5 anni ha avuto un'ondata di migranti diversa, però in diversi momenti della storia. Cioè, nel 2015 abbiamo avuto tra le 600 e 900.000 persone che sono passate da questa isola. Lesbo è un'isola accogliente, un'isola che riceveva, salvava le persone in mare, che poi pian piano attraversavano l'isola e arrivavano sul continente, e dal continente iniziavano a risalire e decidevano in che paese andare a finire. Negli ultimi 2-3 anni l'isola ha rallentato, nel senso che i trasferimenti dall'isola alla terraferma avvengono sempre più lentamente. Negli ultimi 6-8 mesi i trasferimenti all'isola si sono praticamente fermati, per cui abbiamo un'isola con una comunità di 25.000-30.000 persone e un campo profughi di 20.000 persone, con tempi di attesa per muoversi da qua che si arrivano anche all'anno, per cui la situazione è estrema di suo. In più, la notizia di 2-3 giorni fa di Erdogan di dire: vi mando una quantità di persone che non sappiamo calcolare se 5.000, 10.000, milioni, come sta parlando il governo turco, ha fatto impazzire completamente gli isolani. In più, in tutto questo momento complesso di quella che è l'equilibrio geopolitico del Medio Oriente, è nata una questione politica interna all'isola. L'isola, come dicevo, è un posto molto molto accogliente, però una parte degli isolani si sono appoggiati a quelli che sono i movimenti di estrema destra, per cui Alba Dorata, e hanno iniziato a fare una serie di blocchi sulla strada, hanno attaccato giornalisti, hanno attaccato attivisti, volontari, lavoratori delle ONG. Quindi l'isola è completamente traumatizzata dagli eventi degli ultimi giorni, che sono il concludersi di un periodo di almeno 6-8 mesi in cui l'isola è stata abbandonata sia dal governo centrale ma proprio anche dall'Europa. Quindi insomma questo è il frutto, come ci stavi dicendo, anche di politiche scelte per l'isola. Certo, l'idea è che da quando tutte le isole greche sono state scelte come gabbia per mantenere migranti che non vengono riconosciuti né come richiedenti asilo né come migranti economici, ma semplicemente come delle persone in movimento che non possono arrivare sulla terraferma, le isole, ma non solo Lesbo ma anche Samos, Chios, sono diventati degli enormi manicomi, cioè sono dei grandissimi campi profughi in cui le persone sono costrette a rimanere per dei tempi che si possono dilatare anche fino a 18 mesi, non sapendo quale sia il loro futuro. E nell'idea del manicomio prebasagliano, quelli che subiscono il manicomio non sono solo le persone che sono all'interno, ma sono tutte le persone che ci lavorano e le persone che sono all'esterno, per cui le isole diventano un carcere e nello stesso tempo questo carcere all'interno un campo profughi. La situazione è esplosiva. In tutto questo la capacità di rispondere dell'Europa è praticamente nulla, cioè qua non si vede un rappresentante europeo da anni, ma anche la capacità di rispondere del governo centrale greco è praticamente nulla, perché hanno cercato di inviare poliziotti, degli agenti antisommossa per costruire un altro centro e si sono venuti ad affrontare con gli isolani che non volevano la costruzione del nuovo centro. Insomma, c'è una situazione di stallo, e questo stallo ovviamente è una situazione di grande spinta che arriva dalle coste turche, è assolutamente inaccettabile sia per noi che siamo europei, che stiamo a guardare, ma soprattutto per gli isolani che qua ci vivono. Infatti ti chiedo un'ultima cosa per quanto riguarda i barconi. I flussi in questi giorni quindi sono aumentati? Sì, il numero di arrivi è sicuramente superiore alla media. Questa mattina non ce ne sono stati, ma ieri sono arrivate oltre 1.000 persone. Questa mattina non sono arrivati barconi, non sono arrivati gommoni, perché la guardia costiera greca ha deciso di fare delle esercitazioni militari in mare con proiettili veri, per cui stanno sparando in mare facendo l'esercitazione militare per far sì che le persone che partono dalla Turchia si sentano un po' in pericolo e per cui non partano. La realtà è che poi dopo, questo è quello che ci raccontano, le immagini dicono tant'altro, cioè che quando partono la guardia costiera greca li bastona e sta in acqua di fronte a loro. Le persone che sono arrivate negli ultimi 2 giorni sono state messe a Karthikamina, che è una piccolo porto nel nord dell'isola, e hanno dormito sulla spiaggia per 2 giorni, perché la parte dell'estrema destra dell'isola di cui vi raccontavo prima ha completamente bloccato l'accesso al campo profughi, per cui abbiamo una situazione in cui chi è arrivato un paio di giorni fa è comunque bloccato al di fuori del campo, chi è all'interno del campo rischia la violenza se si muove dal campo. Noi giornalisti, lavoratori delle ONG siamo molto limitati nei movimenti. In questo momento non c'è arrivo quest'oggi, ma è una situazione che può durare un paio d'ore, cioè che oggi pomeriggio possono arrivare decine di persone o forse centinaia e domani posso bloccare di nuovo la situazione. È uno stallo che non vede in questo momento una fine. L'unica possibilità di risolverlo è sicuramente da un accordo che arriverà tra Bruxelles, Berlino e Ankara.